che non mi fermo, rallento, fisso il caminetto e spento, mentre io sono all'inferno, al centro, dentro l'esaurimento, comincia tutto con un lento logoramento. Questo tram tram mi devasta, guasta l'equilibrio psicofisico. Ogni sera tiro tardi, parto sobrio, pure se mi manca il fisico mi calo due Bacardi. Poi parlo con me stesso, rifletto, mi vedo riflesso come giù al laghetto dove vado spesso. Penso a come sono messo, male se la vita è un cesso. Vale la pena di starsene in pena come chi si spinge in vena. Un ultimo baluardo di felicità artificiale. Non sono bugiardo ma beffardo se confesso che la verità alle volte fa ancora più male. E c'è chi se ne fotte, i figli prende a botte. Dice alla moglie che rinone, invece va al salone di mignotte. Chi si sente vivo grazie ai colpi della polvere, chi muore fuggitivo sotto i colpi di un revolvere. La valvola di sfogo di chi non è socievole lo fa finire a rogo, socialmente riprovevole. La società ti impone delle regole, ma chi ti giudica? La collettività, la cui attività sta nell'infrangere le regole. Vedi il paradosso, ma ormai ne sei forgiato. Scegli il compromesso, meno peggio. La dialettica non manca, di carteggio non ti sfianca. Arranca, ne pratica tanto, sei abilitato. Rimorso non è contemplato, incamiciato per coprire un dorso tatuato. Abile arruolato, pronto per rispondere. Mi dica, sa il telefono una fica, dice pronto, avvocato.